devo fare la sosta, domani mattina prima di partire faccio. No, no, dai, ci riesco a fare molto pomeriggio. Prendo che faccio un cicchino di vino e via. Attenzione Brecco. Uè Tattalino. Sì, meglio sto scendo di radio. Eia. Perché ho messo l'M93. Cavagala. Sì, almeno un po' più forte dovrei uscire. Vediamo un po', hola. Eia. Però non amplifica molto, così è. No, non è un'amplificazione forte. È forte no, questo è chiuso. Da dove parte? CQCQ, Gianni, buonasera. Buonasera a lei, con chi ho l'onore di parlare? Addirittura. Luciano qua, dai Gianni. Beh, Catralina, dove sei? Uscita a gallerie qua, zona di Tatta rimando, cazzo. Cava, arrivi forte chiasso. Cazzo, Catralina. Perché? Non lo conosci a Catralina, Luciano? Catralina, Luciano. Sono in compagnia di Natalino, Luciano. Chi è? No, ho sentito mormorare, ma non riesco a tirarlo fuori. Sì. Natalino Alfa 1, da questa parte, dai. Fortunato, ma quel fortunato di una volta, ancora in giro sì, bubu. Aspetta che mi sono tu chiedi, Lucia. Ciao, fortunato. Io pensavo che eri già in pensione. Fortunato, di rientro siamo. Aspetta che sono messo al traffico qua, per la niente. Adesso che il traffico è che è basso di radio che sta arrivando, fortunato. Come mai? No, ti ho lontano il microfono. Perché è alto lui, Gianni, è alto molto lui, capito? È migliorato. Gianni, un attimo di bianco. Eia. È fortunato, esce basso perché è alto lui, capito, già. Eia. E brucia! Mi sta richiedendo dalla pensione. Ho detto, boh Gianni, fortunato sei andato in pensione, ho vinto qualche supereralotto, non sei né più teso, né più vizio, boh. No, pensione, Lucia, prossimo anno, proprio di questo periodo, un anno mi manca. Già passa in fretta, se devo... Già passa, Lucia. Cazzo, c'è un fosso qua all'entrata dell'Eurosarda, ma Zulke, cazzo, non raccontane, no? Oh, signori, io vi lascio perché sono già arrivato qua alla base. Ciao Luciano, Gianni e poi l'altro amico che non mi ricordo chi è. Dai, da parte mia chiudo perché sono parte trabacco. Ciao Fortunato, ciao, buona serata. Ciao Fortunato, ciao, se vi stai ascoltando, dai. Come. Ha detto Gianni, mi stavo dicendo c'era Natalino, boh, no, lo sentivo, Natalino, ci sei. E adesso mi ha detto un attimo di bianco, deve essere che è andato al QTH piccolino. Ai, gabagabagabagaba. E come mai non si sente la torre di controllo? Stava facendo la pennichella. Mi sembra un po' tardi per fare la pennichella, già. Cazzo, è già ora di cuccarti di tutto. Vabbè, con questo caldo non è che ti viene molta voglia, La verità è questa, ma con questo caldo è un casino. E ancora niente, e ancora sta iniziandomi. Cavagala. Comunque già, sta funzionando bene questo trick e track, là, perché oggi ero anche... ero mezzo preoccupato, gatto, non sentivo niente, No, già sta andando bene. Dice, conosci qualcuno che sto vedendo il mio? Quello modificato, il 48. Già, se ne sento qualcuno. Se ne sento qualcuno, te lo dico. Qualche periodo fa già qualcuno lo voleva. Non l'ha più visto, il suo tipo. cava cava, va bene, dai, si senti, non c'è problema. Lo stanno 350, c'ha tutto, c'ha doppio modulatore, c'ha la bandiera italiana, poi sopra è stilizzato, ha tutti i pomelli illuminati, 120 canali, insomma c'ha tutto. Gapparrogero, Gapparrogero, se ne sento, sarà fatto. Cava gava. Cava gava. Dai, ti lascio un attimino che devo fare una regolazione qua, dai. Regolazione, ci sentiamo magari più tardi. Già, dai, tanto io poi uscito da Sassari non mi ascoltate più a me. Dai, casomai a domani già, buona serata. Ehi, io già ti ascolto, dove stai andando? Tu forse ancora già mi ascolti, io in direzione di della Nurra sto andando, lì, la Corte, Palmalva. Ehi, a Vuglia che ti ascolto. Ehi, a Vuglia che ti ascolto. Già va bene, già va bene. Va bene, già va bene. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi magari, che devo fare questo lavoretto. Ehi, ciao già, ciao, ciao, ciao. Aumentati Gattrami, che avete sempre la torre in ascolto, quindi no, non ti preoccupare che non sei mai solo. Guarda là, ci contavo, buonasera Claudio. Sarà molto difficile che Gianni ti ascolta, forse non ha capito la stai andando. Io ero già, quindi siamo bene. Hai chiamato anche l'altra volta, ti sentivo solo io. Ciao Lucia, buonasera, ben ascoltato, vai. Sto facendo alcune cosette qua. Ti abbraccio, buon rientro, buon tutto e ci ascoltiamo alle prossime. Buonasera a tutti quelli del 10. Ciao Lucia. Ehi, salutone, dai, alle migliori. Ciao ciao. Venga, adelante, la buena tarde por aquí desde Málaga, pues, hola, la estación R6QR Juan. ¿Por dónde andan ustedes? Ah, que soy la de Almería, pues yo soy el mismo de esta mañana. Bien, Santa, ¿cómo llegáis aquí? Bien, del Carmen, ¿tú lo vas escuchando por ahí, Caracol? Y yo, ¿cómo vale? Pues yo a Almería la copiamos pocas veces, muy pocas veces. La copia a Valencia, la mía están en la punta arriba, claro. Ya ves que estamos muy malamente para Almería, pero fíjate tú, ha abierto la propagación para allá y fíjate tú, el hombre dice que estoy montado yo con ella en la máquina. Ya ves, mira para atrás que mira dónde estoy aquí, pegándote ahí con el camión. Hombre, también estaba aquí para este lado, ahí por el Miramar, por ahí. Y ahí mientras más para arriba, te empantalla más con la tierra, ¿eh? Hasta mañana, Biticlin. Escuchándolo perfecto, perfecto, Santiago 3-4, más o menos andando y en radio. Muy bien, fuerte, fuerte. Claro, eso el hombre, eso que ha dicho, me cago en Dios, y es que para que te tengo aquí atrás la marcha. Oye, negro, y... salita de Roma Turce. Che sarà mai, tanto se veniva chianata. Oh, però con tutto che mollaio e riacceleraio non ha perso niente, eh? No, no, no. Capite perché sono chiuso in giacca e cazzo, no, a scappuzzare. Ma questo purtroppo sono dopo un coglione, oh. Minchia, poi perché si fa? Le luce proprio uguale, ci sterna la faccia. Ma fatti la pescare l'oculo, però. Canale 10, canale 10, c'è qualcuno sul CH10 27075? Yeah, ciao Riccardo, ci sono io. E nessun altro? Sento solo QRM, vuol dire non c'è nessun altro. Aspetta un attimo che sta suonando qualcuno. A ciao Natalino, comunque. C'è qualcun altro sul canale 10? Tutti scappati siete? Sto rubando una mazza e c'è un bel di propagazione, cosa? Claudio, non c'è nessuno, tranne Natalino. Ti morto. Lo so, sono morto. Come mi stai ascoltando di radio, Riccardi? Che ho piazzato l'M93 qua, in questo apparecchio. Si sente che l'hai cambiato, te lo stavo per dire, che è molto meglio. E cappa. Salutamelo. Già te lo saluto. Mimi, la 50 ti sta salutando. È andato il cane a prenderla. Ciao Bucetta, l'ho ascoltata. Saluta. Ciao Riccardi. Ciao. Oh signore. Poi a mamma credo che ci... Vabbè, sono contento che va meglio la radio, da. Va molto meglio, prima ti sentivo più livello QRM, più livello propagazione, adesso sei molto meglio. Watt purtroppo, 2 watt da questa cosa. Comunque si è aumentato molto di più. Si sente che è amplificata? Secondo me sì, secondo il mio parere, perché poi ci sono quelli che dicono che fai altamente schifo con questa modulazione. A me... Faccio anche schifo con questa modulazione. Natali! Dimmi! Mi hanno staccato la corrente, hanno detto che dobbiamo uscire, ci sentiamo più tardi. Ok, ciao Ricca. Ciao a tutti, pronta la pochetta e ci sentiamo più tardi, anche se ti eventuali ne ascolto. Calmi. Gianni G. Trento, Gianni. Gianni. Chi è che mi chiama? Ciao Nico, buonasera. Ti sento bene, ma noi siamo vicini, capito? E sarà propagazione che senti. Magari tu senti pure più di me, perché io ho l'antenna che passa, ho un metro di tubo che esce dal tetto, non di più. Ah, stavo chiamando a Gianni Doppiuno e non mi risponde, no? Attenzione, canale 10. Ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh Gianni, guarda che c'è Nicola, tu lo senti? Così ti fai dare un controllo da lui, che lui deve ricevere per forza di meno di me. No, aspetta, dimmi se di radio vado bene adesso, che l'ho mettato appena, perché era 2 watt, l'ho messo a 4, prova a vedere se va bene lo stesso. Benissimo, va alla grande. Allora lo chiudo così, dai. Lo sai che il trim era diverso, non era R13 come diceva, come mi ha detto Luca, ma era nominato R37. Cappa. Aspetta, Nicola, come lo senti a Gianni? Non mi parla un attimo. Nicola, guarda come mi stai ascoltando, 1, 2, 3, prova. Ehi, vabbè, ok. In quella radio va bene, l'amplificazione c'è. E adesso la chiuso, dai. Lasciala così a 4, dai, che va bene. Ho usato cacciabiti anti-induttivi, natali di lusso. Ci vogliono quelli per fare quelle regolazioni. Usi uno di ferro, come nell'otto gli varia tutto. Io avevo tutta la serie, ma poi magari nella scatola girando e facendo gli ho rotto le punte, ragazzi. Vabbè, l'impulsante ne hai uno che funziona. Sì, quello per il trimmer va bene. Facci, conserva però. Adesso chiudo. Chiudilo con calma, già sono qui. Gli ho messo l'M93 perché il suo originale esce troppo basso. Sì, meno male. Benissimo. Magari esce più forte del microfono normale. Hai visto, ho cambiato il microfono anch'io e sto uscendo più forte, perché quello suo è proprio da piangere. Sì, ma è l'apparato che è anche chiuso. Questo dovrebbe amplificare di più il microfono, però è la radio che gli impedisce di amplificare di più, perché è chiuso, è omologato e non si può toccare. E credo proprio di sì. Se l'avessi trovato me l'avrei preso e questo ce l'avrei buttato. Guarda, fa... Sì signore. Meglio in campagna. E quello è che è lontano dalla città, abitavo vicino a dove abita Riccardo. Sì signore. Quello è che non c'è tram, se non hai la macchina è un macello, perché la strada è troppo stretta, dicono. Ma non ti disturba nessuno, in campagna sei più tranquillo, non senti i rumori delle macchine, nulla. Invece qua in città è un macello, ogni tanto passa un'ambulanza, se me ne spiegate senti tutto. Campagna è sempre meglio, anche secondo me è meglio la campagna, guarda. Sei più tranquillo e tu, poi se c'è la moglie che guida non hai problemi di nessun genere. Da me saliva quello, Ho capito, c'è di bello che trovi sempre il parcheggio, invece qua parcheggio non ce n'è, oggi ho dovuto posteggiare la macchina lontano da casa e me ne sono tornato col bacolo e mi faceva male la gamba.